Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinaient. Il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un fameux bail, ça fait déjà un fameux bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle, mais mûr plus que jamais. Je me suis saoulée en l'écoutant, l'alcool. Questa mattina riprendiamo un discorso il cui filo abbiamo abbandonato nella scorsa edizione, ripromettendo di tornarci e aggiornarci. Partiamo lasciando un po' di suspense. Oggi parleremo di un personaggio che ha attraversato la storia degli ultimi 40 anni in maniera fantastica, disorganizzata, scomposta e cruenta. Un personaggio che è entrato a pieno diritto nella storia, di cui proprio nella giornata di oggi è uscito un importante libro, una grande biografia, la storia di questo personaggio con una grande foto sulla copertina, vi lascio la suspense, però di questo libro mancano alcune pagine. Le ultime pagine sono state volutamente lasciate in bianco perché in realtà questo personaggio fatica un po' a entrare totalmente nella storia. Per entrare totalmente nella storia deve fare quello che fanno tutti i grandi personaggi, tutti gli eroi della storia, tutti i terribili e ammirati, odiati o disprezzati grandi personaggi che alla fine muoiono. Beh, questo invece stenta abbastanza a morire. Ti lascio montare la tenda in giardino da me, la riempio di quelle bernarde che piacciono a te. Amici come prima, mi costa una fortuna, quel traffico in mare. Avrete capito perfettamente che si parla di Gheddafi questa mattina. E il dilemma che ancora non riesco a capire, perché quando se ne parla attraversati allo stesso tempo, da un brivido, da un fremito di indignazione e anche da un malcelato sorriso, quasi di divertente ammirazione per questo personaggio. Ci aiuterà a capire questa mattina questo dilemma un giornalista che ha appena pubblicato, come ho già annunciato, un libro dedicato a Gheddafi. Pierluca Pucci Poppi, buongiorno. Buongiorno. Il libro è Gheddafi, ascesa e caduta di un oppositore globale, con prefazione di Paolo Guzzanti, Aliberti Editore. Io ho detto una battuta che non corrisponde al vero, che il tuo libro ha delle pagine bianche in fondo. Però è vero, questa è la biografia di un grande dittatore, di un fantomatico e poliedrico personaggio, però manca la parola finale. Non si può fare la biografia di un dittatore se non si racconta anche la sua epica morte. Senz'altro, però comunque il regime sembra crollato. Quindi che Gheddafi sopravviva ancora per un po', come Saddam Hussein ad esempio, che è durato qualche mese dopo la fine del suo regime in Iraq, beh, non è che cambi molto alla sostanza della cosa. Cioè, il regime gheddafiano, un regime unico, particolarissimo, durato per 40 anni in Libia, comunque vadano le cose, domani è concluso, è finito. Poi, quale sarà la sorte del colonnello? Ovviamente non lo si può sapere. Tu ti sei fatto una tua idea, visto che conosci bene, è documentatissimo il tuo libro, e entreremo adesso poi nello specifico di quello che ci interessa raccontare, il suo rapporto verso la sua gente, il suo rapporto verso l'Occidente, questo senso di inspiegabile servilismo che ha sempre avuto tutta l'Europa, ma anche l'Italia, attraverso vari governi. Adesso noi scherziamo con Elio le storie tese dell'ultima vicenda delle ragazze convertite, della tenda con la gnocca a Villa Torlonia, ma in realtà tutti hanno dato il loro con Gheddafi. Tu ricordi nel tuo libro un famoso invio da parte del governo Andreotti di De Michelis, accolto dal ministro della pesca. Sì. Cosa accadde allora? I rapporti erano l'89, i rapporti erano molto tesi fra Italia e Libia. Allora Andreotti, presidente del Consiglio, manda il neo ministro degli esteri Gianni De Michelis a Tripoli per riallacciarli. solo che visibilmente erano tutti spaventati da Gheddafi, sì. Tutti volevano essere amici. Ci aveva anche tirato i missili su Lampedusa nell'86, che però era stato più una cosa di dimostrazione, non era successo nulla. Ho capito, ma se avete fatto uno scherzo del genere, non so, vicino alla Corsica, sarebbe stato bombardato nel giro di 5 minuti, forse solo per l'opinione pubblica francese, che non avrebbe tollerato, o inglese o di qualunque altro paese. Noi invece mandammo il ministro. E come fu accolto? Fu accolto così: l'agenzia libica IANA dà un lancio di sole 3 righe in cui viene chiamato Gianni Di Meclis, come Totò che sbaglia il nome apposta, esatto, per noi voulevons savoir, roba del genere. Arriva l'unico ministro europeo presente, il ministro degli esteri della Repubblica Italiana, viene accolto all'aeroporto da un giovanotto senza cravatta, il ministro della pesca. Questo ispirerà la vignetta I Forattini su Repubblica di De Michelis trattato a pesci in faccia. Gheddafi non solo non lo incontra Di Meclis, ma non lo ringrazia nemmeno, mentre ringrazia tutti i paesi presenti e molti paesi europei non presenti. Quindi l'Italia, l'unico paese europeo ad aver mandato un suo ministro, un rappresentante, viene trattata appunto a pesci in faccia. La stessa cosa che è accaduto un anno fa, quando di fronte alla scaletta dell'aereo da cui scese trionfante con la fotografia dell'eroe libico ucciso dagli italiani attaccata al petto, costrinse Berlusconi a farsi di cortisone perché aveva dei problemi alla schiena quel giorno. Questa fa parte delle cronache. Sì, sono carte che sono uscite su Wikileaks. Il povero Berlusconi doveva rimanere bloccato a letto, però il suo amico Muammar gli fa sapere che fa saltare la storica visita se non si presenta. Quello si riempie di cortisone, poveretto, e ci va. A dire il vero, Gheddafi avrebbe voluto anche il presidente della Repubblica Napolitano, che invece saggiamente se n'è rimasto al Quirinale. E come hanno segnalato oggi sul mio profilo Facebook, uno dei tanti episodi paradossali di quella visita, ma lo diciamo non per gettare sale sulle ferite, perché questa è l'ultima fase di un rapporto che si è sempre svolto su questa sorta di stranissimo ambiguo filo. Il rettore di Sassari, Giovanni Lobrano, voleva conferire a Gheddafi laurea honoris causa in giurisprudenza. Sabato 2 maggio il professor Giovanni Lobrano, prese la facoltà di giurisprudenza all'Università degli Studi di Sassari, comunica ai componenti del Consiglio di Facoltà che, all'ordine del giorno del Consiglio di Facoltà, convocato venerdì 8 maggio 2009 alle ore 9, viene integrato come segue: proposta per conferire la laurea honoris causa al colonnello Muammar Gheddafi. Ecco, questo è un episodio, ma ci sono stati altri. Sì, a parte che si immagini una laurea in giurisprudenza al colonnello Gheddafi. Cioè, non è... Potevano scegliere qualcos'altro. Sì, scienza della comunicazione, ecco, lì si dà a cani e porci. Perfetto. Sarebbe stata molto adeguata. Sì, per esempio, quando va all'università La Sapienza, la stessa università dove era stato impedito al Papa di parlare, Gheddafi fa un discorso completamente delirante in cui parla di democrazia, dicendo che è una parola araba che è stata ripresa dal latino, perché demos è popolo, ma crazi vuol dire sedia. Quindi la democrazia è quando ci si siede su delle sedie, però tutti, perché se siamo solo in 10 si dovrebbe chiamare diecicrazia. Insomma, roba a questi livelli. Il rettore della Sapienza di allora sostiene di aver trovato spunti molto interessanti nel discorso. Il tuo libro è una pietra tombale per molte persone, perché è trascritto completamente, tradotto il discorso, è tradotto anche le note di applauso venivano fatte da parte dell'Accademia al tempo. Andiamo avanti. L'hai visto Gheddafi? Tutti a dire adesso, ma è pazzo. Ah, va? Perché prima era normale. Cioè, è solo 20 anni che è un malato di mente. Cioè, adesso che bombarda la gente con gli aerei, tutti a dire, ma è impazzito. Perché prima... Vabbè, lo dice con affetto, vero? Sì. Vuol dire che non c'erano segnali, prima non c'erano avvisaglie. Cioè, uno che gira vestito da domatore di leone, ti sembra normale. Uno che pianta una tenda nel centro di Roma come se fosse in un campeggio di Tor Vaianta, è normale. Susana, se l'abbigliamento fosse in te. Per Luca Puccipoppi, autore di Gheddafi, Aliberti editore, libro uscito proprio oggi dedicato a Gheddafi. Come vedi, però, la lettura fantastica fa la Letizzetto. In realtà è come la favola del bambino che dice il re nudo. Forse che nessuno si accorgesse mai del paradosso di quello che stava accadendo. Io che abitavo in quartiere Prati avevo il quartiere bloccato e stetti tutta la notte alla finestra a vedere passare questo interminabile corteo di macchine, di SUV, di autoblindi, di motociclette che passava il colonnello. E tutta la politica era bloccata e tutte le donne importanti erano bloccate e tutto il puttanume nazionale era convocato lì con il libretto in mano a mostrare grande deferenza, grande spirito di conversione. È così, a dire il vero, questo scherzo l'ha già fatto i francesi, lo fece dei francesi 2 anni prima nel 2007, la storica visita a Parigi del colonnello Gheddafi da Sarkozy. dove con Binomi, passi il termine, un gran casino anche lì, cioè smentisce Sarkozy in diretta televisiva, insulta la Francia, ha fatto cose terribili, però da noi ha fatto peggio. Comunque i francesi, per esempio il ministro degli esteri di allora Bernard Kouchner non lo accoglie e si fa insultare in conferenza stampa dal ministro degli esteri libico Charles Ghan. Da noi invece, più che tappeto rosso, si sono messi proprio a tappetino tutti, ma a destra, a sinistra. Ricordo che l'unico fu Gianfranco Fini, che per 2 ore di ritardo alla Camera dice benissimo, questa visita è annullata. E allora, in maniera bipartisan, Beppe Pisano e Massimo D'Alema corrono da Gheddafi dicendo oddio, il colonnello sta male. Sta benissimo, il suo staff fa solo sapere che doveva pregare, che era la preghiera del venerdì. Perché D'Alema, ai tempi della sua presidenza del Consiglio, ha avuto buoni rapporti con Gheddafi. Eccellenti, fu il primo capo di governo europeo ad andare in visita in Libia dopo la fine delle sanzioni per Lockerbie. Ottime, ma questa politica verso la Libia dall'Italia è vero che è stata molto accentuata da Berlusconi, ma è stata la stessa che hanno fatto tutti i governi della Prima Repubblica, i governi di sinistra come D'Alema, Prodi, è sempre stata la stessa. No, è vero, abbiamo degli interessi là dentro molto importanti, però forse ci sono degli eccessi che non sarebbero giustificabili solo dai meri interessi. Come diceva Littizzetto, nessuno si era accorto che era un signore vestito da domatore con i capelli tinti, totalmente ridicolo. Potesseci qualcosa su cui almeno che avrebbe meritato una riflessione generale. 800240024. Questa mattina vi forniremo importanti testimonianze anche dirette da Libia, ma vediamo, visto che stiamo toccando l'aspetto folcloristico, se vogliamo grottescamente divertente, fermiamoci un attimo a quella che è la cronaca riguardo alla situazione Gheddafi. Si combatte ancora a Sirte, città natale di Gheddafi, 100.000 persone in fuga, denuncia la Croce Rossa, ma del Raïs ancora nessuna traccia. Si combatte ancora a Sirte, la città sta morendo. A lanciare l'allarme è la Croce Rossa Internazionale, che ha cercato di far entrare un convoglio di medicinali. In questo momento le forze rivoluzionarie controllano l'80% di Sirte, ma il restante 20% sembra ancora invalicabile. Queste scene si ripetono da giorni e assumono le dimensioni di un esodo di 100.000 persone. Chi fugge dalla città natale di Gheddafi racconta. La situazione è tremenda, non c'è benzina, mancano cibo, acqua, non c'è più niente. Questo è un reportage del TG1 di ieri, per farvi capire, mentre noi parliamo di capelli tinti, di divise, di facezie e di sdilinquimenti politici, si combatte e si spara. Dovrei fare una precisazione per Luca Puccipoppi. Tutti dicono Sirte, la città natale di Gheddafi, non è vero? No, non è nato a Sirte, è nato nel deserto sirtico a sud della città, ma lui la città l'ha vista più tardi, perlomeno questo è quello che racconta Gheddafi, che è l'unica fonte su se stesso. Sì, anche la data di nascita non si sa. Non si sa perché neanche lui sa quanti anni ha, perché a quell'epoca, cioè negli anni 40, non esisteva obbligo di anagrafe per i beduini, che viene introdotto solo negli anni 50. Per questo stinge i capelli, perché può bleffare anche sull'età. Ha questi capelli curiosi e queste uniformi effettivamente... Anche la famosa ferita procurata da una mina italiana potrebbe essersele fatta sui pattini a rotelle, per quello che ne sappiamo. E che ne sappiamo? È stata causata da una mina? Quella mina era italiana? La fonte su Muammar Gheddafi è Muammar Gheddafi. Andrea Gagliani, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Andrea Gagliani, giornalista del Foglio, per il quale pubblica e cura la rubrica militare, si occupa di analisi storico-strategica e studio dei conflitti internazionali, dirige il mensile web Analisi e Difesa e collabora con il Sole 24 Ore. Con Gagliani abbiamo più volte fatto il punto sulla guerra che nessuno chiama guerra. Sì, vediamo se puoi darci un aggiornamento, perché noi ridiamo e scherziamo come se parlassimo di un antico dittatore del secolo passato, ma in realtà qualcosa sta accadendo attorno a Gheddafi. Beh, sai, c'è questo grande mistero su dove si sia nascosto, e poi c'è, come al solito in questa guerra, ci siamo abituati alle sparate dei ribelli che, essendo organizzati, anzi disorganizzati, su almeno 40 milizie di estrazione tribale e politica diversa, ognuna col suo portavoce, e raccontano ognuno quello che vuole, per cui abbiamo sentito dire che Gheddafi era sicuramente barricato a Sirte per l'ultima battaglia con i suoi, prima doveva trovarsi barricato nel suo quartier generale a Tripoli, ma poi l'hanno trovato. Qualcun altro dice che a Bani Walid non se ne parla più, ma la roccaforte di Bani Walid a sud di Tripoli resiste ancora, circondata anch'essa come Sirte, e i ribelli più volte hanno dovuto sospendere l'attacco perché avevano finito banalmente le munizioni. Sì, Andrea, ma l'intorno che sta succedendo? Cioè, noi cosa stiamo facendo? Noi intendo come Italia, ma anche come resto dell'Europa. Stiamo combattendo, stiamo lanciando missili, ci sono azioni di guerra, perché dai telegiornali si vede un gran rumore, un gran fumo, ma sembra quasi con le guerre raccontate di cui si tace l'aspetto più crudo e realistico, fosse comuni scoperte, ma sono sempre morti seccati, morti vecchi. Vedo due ossette e questo non mi dà l'idea di quello che può essere veramente accaduto. Sì, ma Amnesty International ha documentato anche morti recenti e non certo provocate dagli uomini di Gheddafi, ma libici di colore, quindi del sud, o immigrati uccisi sommariamente, probabilmente dai ribelli, perché considerati dei mercenari. Certo, chi ha la pelle scura in questo momento se la passa male, perché viene ammazzato a vista più o meno. Sì, tra l'altro quella della società araba, soprattutto nel Nord Africa, sono tutte tradizionalmente molto razziste verso le popolazioni africane di colore. Oggi lo scopriamo di fronte a questi casi relativi a questo conflitto, ma chiunque abbia frequentato quelle zone lo sapeva da tempo. Riguardo al nostro ruolo, al ruolo militare, beh, tu hai detto bene, si parla tanto, però non degli italiani. E infatti poi ci meravigliamo se Obama, quando cita i paesi che hanno contribuito alla guerra, si ricorda della Norvegia, che si è ritirata da 2 mesi dal conflitto, ma non dell'Italia. Dell'Italia non si parla perché per primo il nostro governo ha posto una censura mediatica, io dico ridicola, sulla nostra partecipazione al conflitto, anche perché ridicola perché poi qualche indiscrezione trapela, dalla NATO qualcuno parla con i giornalisti e allora si scopre che l'Italia ha svolto il 10% delle missioni d'attacco e delle missioni delle forze NATO, abbiamo lanciato più di 800 ordigni, inclusi i missili di precisione, abbiamo fatto un lavoro militarmente importante per eliminare le capacità belliche delle forze di Gheddafi, anche ne abbiamo fatto la nostra parte, secondi solo a britannici, francesi e americani. La famosa questione, tu come la vedi, della bomba atomica sporca, di queste minacce di armi letali nascoste nel comodino insieme al pitale, ma è possibile oppure anche questo fa parte della mitologia che gira attorno al colonnello? No, io sulle armi nucleari, sulle armi, gli ordigni radiologici, cioè materiale radioattivo che con un semplice esplosivo puoi spargere ovunque, beh, quella è una minaccia che c'è teoricamente in tutto il mondo, ho scorie radioattive, non c'è bisogno di andare in Libia per trovarle, e un attentato del genere, che non sarebbe una bomba atomica ovviamente, lo possono fare in tanti. Ma ancora non l'ha fatto nessuno, ti ricordi, se ne parlo tanto, sì. Dall'antrace alle atomiche sporche se ne parlò tantissimo, ma alla fine se Dio vuole nessuno riesce poi a farlo veramente. No, anche perché non è detto che un'azione del genere rivolta a una popolazione civile dia un bel risalto, un risalto positivo a chi la compie, perché insomma ci sono anche valutazioni di questo tipo. Allora fermiamoci solo un attimo, Andrea, perché abbiamo una voce di una persona che è appena tornata da Bengasi. Giovanna Ortu, buongiorno. Buongiorno a lei. Giovanna Ortu, presidente Associazione Italiani Rimpatriati dalla Libia, appena tornata da Bengasi, è stata ospite nostra nelle precedenti trasmissioni. Cosa è andata a fare a Bengasi? Sono andata perché noi faremo un convegno il 29 e 30 ottobre prossimo e quindi abbiamo invitato un rappresentante del CNT ad essere fra noi, perché non vogliamo dimenticare, e appunto è bene non tacere anche le date scomode, questo è il centenario della nostra presenza in Libia. E noi ci siamo riscattati dalle nostre colpe della guerra coloniale, contribuendo in modo così determinante, come ho sentito dire nelle ultime battute, alla liberazione del popolo libico, a quella liberazione che ci auguriamo possa essere totale. Ci ricorda chi rappresenta lei, signora Ortu? Esatto, come dice, io rappresento coloro. Quante persone? 20.000 che sono state cacciate da Gheddafi nel 1970, che hanno perso tutto in violazione di un accordo internazionale, che sono stati privati addirittura dei contributi pensionistici versati che l'Italia aveva incautamente trasferito al governo libico, e che dopo, diciamo, la caduta di Idris sono state incamerate da Gheddafi. E i governi italiani da allora cosa hanno fatto per voi? I vari governi? Molto, molto poco, e solo perché c'è stata un'associazione scomoda che non ha mai smesso di lottare. Ricordiamo che noi contro il trattato del 2008 abbiamo fatto un presidio di un mese, 12 ore al giorno, 2 persone che si alternavano ogni 3 ore sotto Palazzo Chigi per protestare, in quanto ci si vergognava di parlare di noi in quel trattato. Vorrei farle dire... Facciamo così, no, signor Ortu, non vorrei interromperla. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue se reperdre de vue quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé. Pourquoi se séparer? Melog 2.0. È stato uno scambio culturale tra, diciamo, la parte di Gheddafi che ci ha spiegato un po' il Corano, ha chiesto sì, se l'avevamo letto, no? E ci ha parlato di un tentativo di conversione in generale all'Islam. L'Islam è l'unica religione, questo. E lui sostiene che, cioè, noi dobbiamo credere a Maometto perché Gesù non c'è. È una persona alla mano, giovanile come noi. Siamo certamente consapevoli che il tempo gioca a nostro favore e contro Gheddafi. Il suo isolamento internazionale aumenta, la forte determinazione... Recenti paradossi, le ragazze prese da un'agenzia di hostess che erano andate a farsi convertire in massa, dicono è un ragazzo molto alla mano, qualcosa del genere. Ho qui in studio per Luca Pucci Poppi, che è il giornalista che ha pubblicato oggi il libro Gheddafi, ascese caduto in un oppositore globale, a Liberty Editore, il libro che racconta la storia della Libia, la storia di Gheddafi, e che speriamo, ci auguriamo che presto possa aggiungere il capitolo che manca, che è il capitolo dell'epilogo, anche se dice per Luca Pucci Poppi che in realtà Gheddafi è già finito. È un ectoplasma quello che è ancora di cui stiamo parlando, però la questione libica non mi sembra, da quello che abbiamo già dato come assaggio, su cui entreremo adesso più nello specifico, sia una questione che non lascia aperti molti punti e molti interrogativi. No, è tutt'altro che chiusa, anche perché la stessa guerra civile, come ricordava il professor Gaiani prima, ci sono decine di gruppi armati indipendenti gli uni dagli altri, gruppi tribali. Per esempio c'è il si chiamano LAF, Libyan Islamic Fighting Group, è considerata una scheggia di Al-Qaeda ed è molto presente a Tripoli, ha contribuito, sono molti e molto armati, molto ben armati, hanno contribuito alla liberazione di Tripoli e adesso i punti che loro occupano li occupano ancora, non hanno nessuna intenzione di sloggiare da lì. Quindi non è chiaro che cosa succederà, anche perché... Non è chiaro chi vincerà questa guerra. No, perché una ribellione della Cirenaica contro si considerava la Cenerentola libica, contro i tripolitani. Poi naturalmente si formano alleanze che cambiano, che mutano, si riallineano le alleanze. E a tuttora non c'è ancora un governo ben definito, non si sa bene se la pacificazione sia completa o no. Ecco, noi ci siamo interrotti dalla prima parte con la signora Giovanna Orto, che è presidente dell'Associazione Italiani Rimpatriati dalla Libia, che è appena tornata da Bengasi. Al di là, diciamo, dell'operazione legata alla sua associazione e il suo congresso, signor Orto, io non ho notato questo fatto. Questo vuol sapere, ecco, proprio il suo punto di vista. No, ecco, io operando sul campo, girando per Bengasi, perché ho avuto tanti incontri con i rappresentanti della società civile, anche con il comitato politico del 17 febbraio, anche sono andata al centro dei New Media che hanno fatto un grande lavoro, e poi c'era uno dei nostri che si era fermato a Tripoli per avviare l'operazione di restauro del nostro cimitero che avevamo restaurato e che è stato violato dalle truppe fedeli a Gheddafi, con danni peraltro non molto rilevanti. Io ho notato invece la generale proprio soddisfazione del fatto di questa popolazione libera che si muove liberamente per le strade, che è felice, anche se è consapevole che Gheddafi ha distrutto tutto, perché lui, non dando loro un'istruzione, non dando loro una speranza per il futuro, chiamandoli ratti schifosi, e questa sensazione sia a Tripoli che a Bengasi, noi ci siamo fermati, l'aereo dell'ONU aveva avuto una pandi, perdeva cherosene, quindi siamo stati fermi 3 ore a Tripoli, non c'era ombra di controllo vero di polizia, il direttore dell'aeroporto mi ha accompagnato alla toilette, per dire, tutti a disposizione, hanno sceso il bagaglio del nostro, sì, che ma poi ha deciso la guerra dove Tripoli. Si vede, dove si ascolta, dove si sente, ecco, fatto c'è una guerra. No, perché naturalmente adesso la guerra è concentrata a Ben Ulid e a Sirte, no? Quindi però si nota proprio una sostanziale tranquillità, tutti i negozi aperti, i ristoranti aperti. C'è, naturalmente, per carità, non voglio dire, Bengasi ha dei problemi, non fosse altro per il lago salato inquinato e questo odore di fogna che ti sommerge notte e giorno, però io proprio la gioia della gente che si ferma e dire tu sei italiano, grazie Italia, vuoi venire a mangiare a casa mia? Io ho avuto delle manifestazioni e anche dei racconti, ho incontrato quell'avvocato da cui è partito tutto, quello che che pochi giorni prima era ritornato a Bussalim, ripreso da Gheddafi, che gli aveva ucciso il fratello e il padre della cognata, delle storie allucinanti vissute proprio con il coraggio di chi, non avendo avuto più nulla da perdere in passato, adesso è proiettato verso un futuro di collaborazione. Giovanotto, ma voi avete qualche labilissima e lontana speranza in qualche maniera di avervi riconosciuto qualche diritto sulle proprietà che sono state tolte? Noi di questo non abbiamo parlato, però loro quello che hanno detto è che hanno bisogno di tutto da noi, dall'Italia e da noi, soprattutto diciamo a livello di istruzione dei giovani, di sicurezza stradale, tant'è vero che io ho appena preparato un documento che manderò oggi alla Farnesina dove dico le proposte che ci sono state fatte. Il nostro contenzioso è e resta essenzialmente con il governo italiano, siccome loro chiedono di rivedere il trattato, il quale logicamente non possono accettare che dopo 2 anni quel trattato fatto così, diciamo, in ginocchio con Gheddafi non venga da loro rivisto, però loro dicono che il rapporto con l'Italia è un rapporto diverso, perché è un rapporto naturale e loro capiscono che noi vogliono, quello che più hanno chiesto è l'insegnamento dell'italiano nelle università. Fermiamoci un attimo, Giovanotto, un secondo, volevo intervenire un altro ospite che mi sembra che ha ben titolo per dire la sua e per aiutarci a approfondire questo quadro che stiamo facendo. Abbiamo al telefono Hashem El Senoussi, che è membro della famiglia reale libica, residente in Italia da quando appunto venne mandato via negli anni 70 da Gheddafi. Hashem El Senoussi, buongiorno. Buongiorno, io saluto la mia amica la signora Giovanna Orto e i vostri ospiti. Ecco, lei in che rapporto è con la famiglia reale, con Re Idris, per capire bene il rapporto, ecco, per farle capire? Il re Idris è il zio di mio padre, Abdallah Abed El Senoussi, chiamato il principe nero, è stato il primo che ha fatto un attentato contro Gheddafi nel 1970. Ecco, se per assurdo ci fosse mai l'idea di una restaurazione della dinastia reale a Tripoli, chi sarebbe il pretendente al trono della vostra famiglia? Allora, io non voglio dire che ritornerà la monarchia, ma soltanto che noi come famiglia siamo una forza stabilizzante del paese, sarà al popolo libico di decidere. Ci sta un cugino che si chiama Mohammed Reda El Senoussi, che vive a Londra, e ci sta un fratello, Idris El Senoussi, che vive anche lui a Roma. Insomma, tutti e due. Sarà tra tutti e due la decisione del popolo. Diciamo, deve decidere il popolo ed essere voi a fare una sorta di primaria in famiglia, decidere chi sarà semmai la persona rappresentativa della dinastia reale a tornare in Libia. Giusto, giusto, sì. Ecco, ricordo che il re Idris andò in esilio al Cairo, è sepolto a Medina adesso, nella città sacra. Giusto, giusto, sì. Ecco, lei può darci un suo giudizio personale sulla figura di Gheddafi? Tutti questi anni se lo sarà fatto un giudizio, vivendo anche in Italia e vedendo anche le entrate e le uscite folgoranti di questo personaggio. Noi come popolo libico l'abbiamo conosciuto dall'inizio, insomma, una persona spietata, e anche, ecco, la maniera come siamo andati noi come famiglia in esilio. Si è messo dentro un aereo, noi pensavamo che andavamo in prigione, invece ecco, nel 1970 con un aereo all'Italia con tutti i passeggeri dentro, e noi pensavamo che stavamo andando in prigione a Bengasi, invece si sono affacciati il Surt, il Rosses, dove siete, chi siete voi, noi con l'aereo da mezz'ora, i motori accesi, dove sta chi siete voi, noi te l'abbiamo detto, siamo della famiglia reale qua, ma dove sta andando questo aereo? A Roma. E allora, ecco, siamo, voglio dire, questo è il personaggio, lui siamo andati in Italia con l'intenzione di assassinare il nostro padre che stava qui a quel tempo. Ah, ci fu un attentato a Re Idris? Sì, c'è stato anche provato tante volte di assassinare mio padre, ma insomma non è uscito. E secondo lei perché non lo fece subito, nel momento in cui lui si insediò? Non eliminò subito la famiglia reale come tanti hanno fatto in altre rivoluzioni? Perché non ci stavano le pretese per eliminarli, perché come avete visto Re Idris è una persona, insomma, viveva la vita semplice, non c'aveva gli sfarzi. Quindi sarebbe reso, temeva di rendersi impopolare compiendo, diciamo, questo atto che andava a toccare probabilmente dei sentimenti profondi che ancora c'erano nella popolazione. Lei è convinto che ancora in Libia ci siano persone nostalgiche della monarchia? Sì, lui lo sa benissimo che avete visto anche quando è scoppiata la rivoluzione il febbraio 17, l'hanno tirata fuori la bandiera come simbolo e anche la foto del re Idris. Ecco, ma da chi siete rappresentati voi in Libia? C'è ancora un gruppo di opinione, un partito, un'associazione che ancora, diciamo, tiene alti gli interessi di una restaurazione monarchica? Esiste? Ci stanno anche nel consiglio, nel CNT, ci stanno persone che hanno studiato nell'università della famiglia Senussi a Beda. Esistono, insomma, le persone che sono legate a quella famiglia. Lei tornerà in Libia se ci fossero le condizioni per tornarci? Sì, ritornerò, certo, come tutti noi che viviamo qui in esilio non vediamo l'ora che si stabilisce la situazione e ritorniamo per contribuire al sviluppo del nostro paese. Grazie a Sharm El Senoussi, membro della famiglia reale libica. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Elle avait des bagues à chaque doigt. 800-24-0024, stiamo facendo un punto sulla situazione in Libia, argomento di cui si parla abbastanza poco, sembra abbastanza in secondo piano rispetto alle grandi vicende internazionali, perlomeno dal punto di vista degli organi di informazione del nostro paese. Lo facciamo recensendo questa mattina l'uscita del libro Gheddafi, ascesa e caduta di un oppositore globale, edizione Aliberti. L'autore è Pierluca Pucci Poppi. Pierluca Pucci Poppi, hai sentito, ha parlato il discendente della famiglia reale, sì. Ma tu hai l'impressione che il potere di fuoco dell'Occidente nei confronti della Libia sia stato espresso al massimo? Perché mi sembra che questa coda lunga è abbastanza imbarazzante. Finché non si chiude la questione Gheddafi non si potranno rimettere a posto tutte queste tessere, gli italiani, i profughi che hanno a pieno diritto, perlomeno desidero di essere riconosciuti, seppur moralmente, la stirpe reale che dice noi saremo l'elemento di coesione del paese, le infinite e frastagliate sottocategorie di combattenti di cui non sappiamo niente, poi i grandi stati europei, gli americani, che stanno facendo? Stanno muovendosi da dietro, ma è possibile che ancora non sono riusciti? Sembra la stessa situazione in cui si trovò il generale Graziani quando doveva sedare la ribellione. Ci ha provato col gas, ci ha provato in tutte le maniere, è stato difficilissimo. Sì, è stato difficilissimo e ancora adesso non si può dire che cosa succederà, naturalmente, perché ha ragione. Ci sono tantissimi contenziosi in giro, ci sono tantissime fazioni armate. La morte di Gheddafi non è detto che risolva tutto questo, perché i problemi rimangono. Per quanto riguarda l'Occidente, non si vede ancora bene come si muoverà. Cioè, c'è stata questa riunione a Parigi, voluta molto fortemente dal presidente Sarkozy, in cui si sono sbloccati dei soldi, se ne sono promessi altri, ma a chi? Ci vuole un governo in Libia, un governo centrale che funzioni, che possa governare e quindi distribuire e decidere l'allocazione di questi eventuali fondi. E poi si vedrà. Andrea Gaiani, ricordo, giornalista del Foglio, dirige il mensile web Analisi Difesa e collabora anche col Sole 24 Ore. Non hai anche te l'idea che manchi un po' un interlocutore per sedersi a un tavolo e capire cosa l'Occidente vuol fare con la Libia, della Libia, assieme alla Libia? Ma sai, manca l'interlocutore a quanto sembra quando va Frattini a Tripoli a chiedere di mantenere i rapporti con l'Italia come erano prima. però gli interlocutori ci sono quando arrivano Sarkozy e Cameron e si portano dietro un'armata di invasione che non è un'armata di forze militari, ma è un'armata di aziende franco-britanniche pronte a prendere il posto dell'Italia sui mercati libici. Quindi io credo che ci sia anche un po' un gioco delle parti e sta emergendo quella che è la vera partita in corso dietro questa guerra, che la NATO ha combattuto blandamente, con poche forze, sperando che Gheddafi crollasse subito, cosa che non è successa. Quindi non è stato usato il massimo potere di fuoco, come si dice? Come dici, scusa? Non è stato usato il massimo potere di fuoco, no, contro Gheddafi? Considera che abbiamo usato un centinaio di aerei da combattimento in questa guerra, poco più di un centinaio, 115 sortite al giorno, quindi missioni di singoli aerei di cui neanche 50 d'attacco. Insomma, quindi non c'è una volontà di chiuderla in fretta questa guerra? L'ideale era quello, sì, perché comunque io credo, rimango dell'idea che un'area di instabilità prolungata alle porte di casa nostra sia contraria soprattutto ai nostri interessi di italiani. Insomma, noi abbiamo giocato un ruolo ambiguo in questa guerra, ma l'importante sarebbe chiuderla in fretta. Gheddafi forse si nasconde nel deserto, se è vero, come dicono alcune fonti, che ha arruolato 12.000 Tuareg, beh, è ancora in grado di dare filo da torcere con azioni questa volta sue di guerriglia e di insurrezione. Il suo unico scopo è essere quello di vendere cara la pelle più che può, fine, non ha nessun'altra speranza. Ma non lo so questo, perché comunque la società libica è una società tribale, ci sono ancora delle tribù che lo sostengono, forse perché non si fidano delle tribù principali che appaiono oggi come vincitori in questa guerra. Quindi molti si aspettavano che Gheddafi seguisse la carta di Hitler, combattesse fino al suicidio o a farsi uccidere combattendo nel suo bunker. Ha scelto invece la carta di Saddam Hussein, quella di fuggire da Baghdad, dove Saddam lo fece nel 2003, per organizzare l'insurrezione. Lui l'ha fatto, si è fuggito da Tripoli, forse anche da Bani Walid, se è vero che si trova ai confini con l'Algeria o col Niger e ha soldi per arruolare combattenti da quelle parti, può ancora fare la differenza, può ancora creare problemi, ad esempio con incursioni nelle zone energetiche dove ci sono giacimenti di gas, terminal petroliferi, creando non pochi problemi ai nuovi padroni della Libia. Come faceva Saddam, che incendiava i pozzi petroliferi. Ti ricordi? Certo. Insomma, mi pare che si stia ispirando al famoso cormorano con bagnato di petrolio. Quella fu un'immagine. Una delle più grandi bufale mediatiche che ci fu. Pierluca Puccivoppi, tu dici nel tuo libro, mi hai fatto capire anche prima, che in realtà Gheddafi, come stratega, come uomo di politica, ha sbagliato sempre tutto. Allora, Gheddafi ha compiuto un capolavoro diplomatico, forse unico nella storia, e cioè quello di farsi attaccare e bombardare con l'assenso del pianeta intero o quasi. Ci deve essere una ragione per questo. Gheddafi si comprò negli anni 70 un esercito pletorico e superarmato, spendendo miliardi di petrodollari, con il quale ha regolarmente perso tutte le guerre che ha combattuto. Quella breve contro l'Egitto, e si può anche capire, ma contro la Tanzania, contro il Chad, è stato debellato e sconfitto. Ha appoggiato tutti i movimenti terroristici del pianeta, tutti. E tutti sono stati più o meno. Questo abbiamo tutti sempre saputo, diciamolo, perché. Certo, no, naturalmente, non è certo uno scoop, però voglio dire, questo ha esasperato il mondo intero. Per esempio, ha impedito che il mondo intero, esasperato, facesse patti con lui e si mettesse a tappetino con lui, sapendo che tagliava le mani ai bambini, fomentava le peggiori rivoluzioni. Naturalmente, ma voglio dire, dal punto di vista della repressione interna c'era gente molto peggiore di lui, per esempio i suoi amici africani, Bokassi, Idi Amin, Mengistu, eccetera. Però quello era un momento di bipolarismo, eravamo in guerra fredda. Il Gheddafi, molto nervoso, va più o meno dal 75 all'85, il cosiddetto decennio rivoluzionario, 73-86, diciamo. E in quel momento Gheddafi era comunque considerato non un alleato, ma così c'è un proxy dell'Unione Sovietica che gli vendeva armi e non si attaccano. Ciò nonostante gli americani lo bombardarono nell'86, i ciadiani li sono entrati nel paese e gli hanno distrutto una base, gli egiziani li sono entrati nel paese nel 77, li hanno bombardato e poi se ne sono tornati a casa. Quindi comunque. Ma lui cosa gli è venuto di queste alleanze strampalate? Nulla. Ecco questo, il fatto che adesso si sta nascondendo nel deserto, perché questo, lui, membro dell'Unione Africana e della Lega Araba, l'unico membro, l'unico caso in cui questi paesi, queste organizzazioni accettano, hanno dato l'assenso alle Nazioni Unite per la risoluzione 1973, la no-fly zone e quindi il bombardamento di Gheddafi. Tutti contenti. Come mai? Avrà combinato qualche cosa per rendersi antipatico, no? Ringrazio Pierluca Pucci Poppi, autore del libro A Gheddafi, uscito su Gheddafi, uscito questo giorno. Ringrazio Andrea Gagliani e tutti i nostri ospiti. Oggi abbiamo toccato ancora una volta un argomento su cui secondo me vale la pena di fare delle riflessioni, perché la Libia non è che poi sia così lontana dal nostro paese. A domani. Melog 2.0. Alors tous deux on est parti dans le tourbillon la vie. On a continué à tourner tous les deux enlacés. Tous les deux enlacés.